Come si fa? Carbone, un nome, una garanzia. Assolutamente, ma noi non possiamo mai fare danni. Certo. Quante soddisfazioni mi dai? Ecco, se poi anche perdessi qualche chilo sarebbe meglio. Qui, oltre ad una pacca sulla spalla, naturalmente speriamo anche di fornire indicazioni pratiche e concrete. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. L'utente si deve pure organizzare, perché la bolletta va pagata e consiglio tutti di pagarla la bolletta subito, non la devi accumulare sullo scrittoio, perché le bollette si accoppiano. Tu ne hai lasciate due, c'hanno il codice a barre, hanno fatti i cuccioli, hanno moltiplicato. Devi andarla a pagare subito, non avere timori, poi vai a pagare, in modo tale che sei pronto per pagare le altre bollette. Tant'è vero che loro, chi gestisce, sa che tu le puoi pagare. Sarà meglio invece non farle accumulare troppo nei prossimi mesi queste bollette, perché lo avrete sentito, oltre al rischio di accumularsi, cioè... In corso un aumento già con l'arrivo di questo mese di ottobre per i pagamenti di luce e gas. Un piccolo aumento, ma naturalmente quando il bilancio è magro anche un aumento piccolo è una vera e propria stangata per qualche famiglia, ed è dell'1,7% per l'energia elettrica e più 5,4% per il gas. Un aumento naturalmente trascinato dalla crisi russo-ucraina, ha stabilito l'autorità per l'energia. Le associazioni dei consumatori sono preoccupate perché evidentemente temono un ulteriore riflessione dei consumi, oltre a quella già in corso, ma ad essere preoccupate sono soprattutto le famiglie. Allora, 800 24 00 24, così prendete un po' in mano la vostra ultima bolletta del gas e della luce, diteci quanto avete speso, insieme proveremo a calcolare quanto spenderete in più nei prossimi mesi. Ne parliamo nella prima parte del programma, sperando di darvi anche qualche consiglio utile per risparmiare e per scegliere se volete cambiare il gestore migliore. Insomma, per far fronte un po' a questi aumenti che, è il caso di dirlo, fanno drizzare letteralmente i capelli in testa, ma questo è un buon segno, vuol dire che i capelli ce li abbiamo. Però ottobre è un mese particolarmente difficile per i nostri capelli, un mese in cui tutti i nodi vengono al pettine. Se li abbiamo trascurati in estate, paghiamo pegno in autunno. Spesso sono fragili, senza tono ed elettrici. Deborah, a proposito di elettricità, allora non fatevi venire un diavolo per capello, chiamate il nostro numero verde 800 24 00 24, siamo a vostra disposizione, perché i capelli raccontano molto di noi e raccontano anche molto del nostro stato di benessere. Spesso noi ci fermiamo alle apparenze, è meglio vederci chiaro. Mi vuol dire quello che desidera? Ecco, mi è arrivata questa bolletta. E con ciò? Come con ciò? La guardi bene, 1.750.822 lire. Con ciò? E come? 1.750.822 lire. E io ripeto a dire, e con ciò? Come con ciò? E vuol dire che le hanno conteggiato i conguagli. A me? Sì. Guardi che a me la cacciagione non piace. E non vedo chi può asserire che io durante l'anno spenda 1.750.822 lire per comprarmi le quaglie. E non si tratta delle quaglie e nemmeno dei conguagli, Nicoletta. A quanto pare, alla base degli aumenti nelle bollette di luce e gas che avremo nei prossimi mesi, a partire da questo mese di ottobre, ci sono anche le tensioni internazionali. La stima delle autorità dell'energia dice che per una famiglia tipo il rincaro delle bollette complessivamente sarà di 21 euro. Immagino che questa sia una stima a bimestre. Di questi 19, solo 19 sono legati all'aumento del prezzo del gas. Ma si tratta davvero parlare solo di questo? Ecco, daremo ricette di fuoco spento. Esatto. Bisognerà suggerire qualche escamotage. Insomma, diciamo che magari, sai, i sostenitori della dieta vegana, che sono crudisti, magari insomma non ne rileveranno più di tanto un effetto, un impatto di questi aumenti. Noi oggi però cerchiamo di vederci più chiaro con i nostri ospiti. Pieraldo Isolani, responsabile del settore energia dell'Unione Nazionale Consumatori. Buongiorno e bentornato. Buongiorno a tutti voi e a tutti gli ascoltatori. E buongiorno e grazie anche a Silvana De Paolo, content manager di MyBest.it, che è un comparatore di tariffe, un sito appunto italiano per il confronto gratuito e trasparente dei prezzi delle principali utilities, quindi oltre a luce e gas possiamo anche comparare, se ci interessano, le tariffe di telefonia, internet e pay TV. De Paolo, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, intanto possiamo invitare come sempre gli ascoltatori a chiamarci. 800 24 00 24, andate a prendere la bolletta, è stata molto chiara Deborah, venite a leggerla, un po' come abbiamo quando chiediamo di leggerci un po' gli esami del sangue. Raccontateci se già negli ultimi anni avete messo in atto delle strategie di risparmio casalingo, magari avete cambiato abitudini, no? Per pagare meno luce o meno gas, oppure avete cambiato gestore nell'ultimo anno, oppure avete rinegoziato, Deborah? Sì, io sono una fautrice della rinegoziazione, ma devo dirti che non ci ho provato né con l'utenza del gas né con quella della luce. Devo farlo, secondo te? Vabbè, insomma, i miei consumi non sono tali da dover richiedere un accanimento. Se non altro lo farei per metterli alla prova, per vedere se mi accontentano e come si comportano. Allora ti faccio rinegoziare al la posto tua? Mio, alla mia, quindi promesso. Allora, andiamo ai nostri ospiti. Intanto, naturalmente, cominceremo a raccogliere anche i vostri commenti. Pieraldo Isolani, tra l'altro stamattina c'è incuriosito un'inchiesta apparsa su Repubblica che riepiloga un po' lo stato dell'arte sulle ultime iniziative del governo e invece la situazione anche geopolitica, perché Repubblica ricorda che nel decreto competitività il governo ha promesso un taglio della bolletta energetica per le piccole e medie imprese del 10%, però mancano, e qua aggiungerei io come al solito, i provvedimenti attuativi, e quindi piccole e medie imprese che aspettavano questo risparmio in realtà si trovano un po' nella situazione beffarda, se vogliamo, di subire il nuovo aumento stabilito dall'autorità del gas e dell'energia. Lei che cosa ne pensa di questo? Dunque, chiariamo intanto che probabilmente le piccole e medie imprese non fanno riferimento ai prezzi che ha fissato l'autorità dal 1 ottobre, perché la stragrande maggioranza di loro sono sul mercato libero, quindi hanno già dei contratti che hanno un loro andamento per conto loro, non c'entrano. Quello che invece voglio dire su questo argomento è una cosa un po' diversa, che nessuno sa bene. Una delle strategie, chiamiamole così, adottate dal governo per abbassare del 10% le bollette alle piccole e medie imprese è quella di rinviare di 5 anni i costi relativi agli incentivi per le fonti rinnovabili, cioè nel senso quello che io pagavo in 20 anni lo pago in 25 e quindi mi abbasso la bolletta, senza dimenticare che questo non è gratis. Si allunga il periodo di rimborso, ma si pagano gli interessi. Interessi, certo. Non so quanto questo sia una cosa razionale. Certo. Probabilmente ci volevano ben altre cose per abbassare le bollette. E una delle ragioni, tra l'altro, per cui mi sembra di aver capito che non escono i decreti attuativi è che questa norma potrebbe anche essere anticostituzionale e quindi essere soggetta a ricorsi, eccetera, eccetera. Certo, quindi insomma è una cosa complicata. Sembra che non siano ancora usciti i decreti attuativi. Vabbè, allora torniamo invece a questo aumento che graverà sul bilancio delle famiglie italiane, il più 1 qualcosa, il 5 qualcosa per cento per luce e gas, appunto, sono già partiti praticamente da ieri, quindi nella bolletta che arriverà a fine novembre noteremo o meno questi rincari. Isolani, proprio adesso che parte l'inverno e useremo di più la luce e il gas, guarda caso riparte la storia delle bollette. Adesso noi non ovviamente mettiamo assolutamente in discussione l'operato dell'autorità del gas e dell'energia, che peraltro è intervenuta spesso a Cuore Denari, ci dà una grande mano anche per spiegarci come funzionano queste dinamiche così complicate, però secondo lei è veritiero l'impatto della crisi ucraina? Dunque, mi consentite qualche minuto per fare una piccola premessa? Va bene. Nel senso che parliamo del gas, perché certo, l'energia elettrica è molto, molto più marginale e le variazioni sono molto minori. E invece sul prezzo del gas noi dobbiamo dare atto all'autorità che quando 2 anni fa, sulla nostra insistenza, ha modificato il criterio per determinare i prezzi di riferimento e togliendoli dal gas collegato all'andamento del prezzo del petrolio per correlarli al mercato del gas, al mercato spot di gas a livello europeo, da 2 anni a questa parte i risultati ci sono stati. È vero. Circa 84 quest'anno e 66 l'anno scorso, quindi circa 150 euro mediamente che le famiglie hanno risparmiato per il gas. Invece che cosa succede? Veniamo al discorso di questo aumento. Questo aumento è il risultato dell'andamento del mercato, nel senso che noi dobbiamo aspettarci, al di là dell'Ucraina, che quando arriva l'inverno, siccome la richiesta di gas aumenta, come per qualsiasi altro bene, se aumenta la richiesta aumenta i prezzi, è abbastanza normale questo, quindi possono esserci anche delle speculazioni, e questo magari sarà l'antitrust che le verificherà, però dal punto di vista economico, se noi facciamo riferimento ai prezzi del mercato, che sono più bassi, come ripeto, di quelli dei contratti dei corpei di vecchia natura, sicuramente noi abbiamo di fronte il fatto che alla sopraggiungere dell'inverno avremo non quest'anno soltanto, ma tutti gli anni un aumento del prezzo del gas. Quindi diciamo che questo aumento tarifario ne seguirà anche un altro a partire dal 1 gennaio, secondo lei, visto che l'autorità rivede ogni trimestre? Questo è l'unico. Non credo. Credo invece che due cose, che i 19 euro che l'autorità ha calcolato di maggior costo per questi mesi del 2014, a questi 19 euro bisognerà aggiungere altrettanti o qualcuno in più, perché i mesi sono qualcuno in più, delle bollette del 2015. Non penso ci saranno altri aumenti del gas, perché l'aumento avviene all'inizio, quando c'è maggiore richiesta. Mentre quello che invece sarà utile fare, noi l'abbiamo chiesto l'altra sera all'autorità quando ci ha comunicato questi dati, che di trovare un modo, come c'è per il settore elettrico, di spalmare gli aumenti prevedibili nel corso dell'anno, in modo che non si trovi la famiglia a dover, quando ha più bisogno di gas perché c'è il riscaldamento, a dover pagare. Certo, anche, quindi questo più 5,4 secondo lei poteva diventare più 2,5 adesso? Poteva diventare una cosa diversa se si spalmava. Naturalmente adesso i buoi, come si dice dalle mie parti, sono scappati dalla stalla, e quindi bisogna preoccuparsi, certo, per l'anno prossimo. Esatto, allora auspichiamo magari questo inverno mite, perché se le cose vanno come sono andate quest'estate, insomma, le stagioni si sono completamente ribaltate, Nicoletta, magari accenderemo i riscaldamenti. Auspichiamo, accenderemo i riscaldamenti a dicembre. Peraltro ricordiamoci che a breve dovremo fare anche una puntata sulla fantomatica revisione della caldaia. Questa mi piace, una delle mie preferite. È immancabile questo appuntamento. Allora, sì, direi che andiamo ad Arezzo. Certo. Ti porto ad Arezzo. Certo. C'è Narciso che ci aspetta. E con questo nome non possiamo che sentirlo. 800 24 00 24, Narciso, voilà, eccoci. Buongiorno. La domanda è una cosa, una sola. Io avevo una piccola capanna, ho una capanna agricola. Sì. E praticamente io cosa pagavo, ci fa? Fino adesso ci tenevo il cane, poi ci faccio la legna, ci tengo, ha visto un campagna soltanto di quella terra. Come ci teneva il cane, scusi Narciso? Sì, in questa capanna agricola ci tenevo il cane da caccia. Una bella capanna, insomma, accogliente naturalmente. Sì, no, ma non dentro la capanna, lo tenevo lì, un bel recinto, i campi, facevano l'orto, il mio povero cognato. Insomma, andiamo alle bollette. Andiamo alle bollette. A maggio ho finito il mio cognato, io pagavo sempre sulle 78-80 euro di luce, sì, ogni domenica. Ora mi sono ritrovato che dopo 4 mesi che io non adopro neanche più, non ho acceso un giorno il pozzo, non ho fatto niente, e ripago sempre 78. Vado a leggere la bolletta e trovo sempre zero, consumo zero. Però tutte le tasse. No, la domanda è questa, ho telefonato a Cosenza perché prima c'era un ufficio dove ci potevi anche discutere, avere delle delucidazioni. Adesso per avere una delucidazione o ti intendi parecchio di computer oppure devo prendere e andare a Cosenza, perché la sede dell'Ene è a Cosenza. Certo. Allora Narciso, no, questo è credo che sia presto spiegato dal fatto che se noi andiamo a guardare la nostra bolletta c'è una componente di tassazione che rappresenta che percentuale, Isolani? Beh, quella fissa non è granché, però è intorno al 15%. Un'altra associazione dei consumatori. Questo signore deve andare presso un'associazione consumatori e con il dato dell'ultima della lettura del contatore che deve farci lui e andare e vedere tutto quanto, perché così come è stata presentata non sarei in grado di dare una spiegazione. Però insomma, c'è qualcosa allora, che non va. Lei dice che è così basso ovviamente il peso della tassazione, perché un'associazione dei consumatori concorrente, Codacons, dice che almeno il 35% del prezzo finale pagato dai consumatori rappresentati. È vero. Per il gas è molto di più, per l'energetica è meno, però anche la tassazione è proporzionale ai consumi. Quindi se lui continua a pagare questa cifra e dice che i consumi sono azzerati, praticamente c'è qualche problema, insomma, ecco, che io qui non sono in grado di capire. Le ripeto, la cosa migliore da fare è leggere adesso il contatore, verificare i dati che registra, segnarceli, andare presso un ufficio di un'associazione consumatori e farci verificare. Benissimo. Silvana De Paolo, vengo a lei naturalmente e ci darà qualche così chiarimento su come possiamo cercare di risparmiare con le nostre bollette. No, in questi ultimi anni hanno avuto un grande successo i tanti comparatori di tariffe che si sono presentati sul mercato, e anche il vostro risulta avere un traffico decisamente interessante, no, per quello che riguarda la ricerca di informazioni. Peraltro, sai Nicoletta, MyBest effettua anche un servizio che si chiama il check-up della bolletta, quindi proprio un po' come gli esami medici, visto? Vedi? Tutti cuore e denari copiano. Io non volevo dirlo, ma sono contenta che l'abbia detto tu. Silvana De Paolo, allora intanto ci racconti un po' se in questi due giorni in cui virtualmente gli aumenti sono partiti, sono accelerate anche le richieste di informazioni presso il vostro comparatore di tariffe, cosa cercano i consumatori italiani? Allora, MyBest si presenta come il sito che fa risparmiare sulle bollette, in quanto è proprio questo il nostro scopo, cioè ossia aiutare i nostri utenti a risparmiare sulle utenze di casa, non solo luce e gas, ma anche ADSL, telefonia o PTV. Allo stesso tempo è proprio quello che le persone e le famiglie che si rivolgono a noi ci chiedono, un aiuto a capire il motivo per il quale molto spesso si ritrovano a dover pagare delle bollette astronomiche. Ovvio che oltre a poter risparmiare ci chiedono anche di non dover però rinunciare alla qualità dei servizi, perché molto spesso la parola risparmio viene associata a bassa qualità. Oggi per fortuna non è così, grazie a offerte sempre più competitive del mercato abbiamo la possibilità di offrire con un'attenta analisi del proprio stile di consumo, il famoso check-up della bolletta, di scegliere la tariffa più adatta a noi, che ci permetterà di avere sicuramente bollette meno care senza dover rinunciare alla qualità di ciò che ci viene fornito. Senta De Paolo, ma se lo volessimo fare io e Nicoletta questo check-up della bolletta adesso in questo momento, cosa dobbiamo portare? Esatto, che informazioni vi servono? Allora, praticamente innanzitutto ci sono una serie di cose da tenere presente, ovvero la tipologia di consumo di cui noi abbiamo bisogno, è un po' come quando si va a fare la spesa, no? Mettendo nel carrello al supermercato ciò che ci serve, noi valutiamo quante persone siamo in casa, chi mangia che cosa, eccetera, eccetera, no? La stessa cosa vale anche per la luce e il gas, nel senso dovremmo considerare ad esempio se sono una casalinga oppure una persona che esce la mattina presto e torna la sera tardi, certo, in questo caso scegliere una tariffa monoraria piuttosto che bioraria. La monoraria, che ha un prezzo fisso per tutto l'arco della giornata, appunto più adatta a una casalinga che usa gli elettrodomestici durante il giorno. Bioraria, che invece si distingue per fasce orarie e di costo, più adatta a quelle persone che escono la mattina, rientrano la sera e concentrano i consumi in certi orari della giornata. Dopo le 19 piuttosto che nel weekend. Bisognerà tenere presente ovviamente il costo del singolo kilowattora piuttosto che del metro cubo per quanto riguarda la luce e il gas. Bisognerà tenere conto, per se si decide di rivolgersi al mercato libero, del tempo per il quale il costo della materia prima potrà per contratto essere bloccato. Uh-huh. Nel senso, i fornitori del mercato libero bloccano il costo della materia prima per X tempo, parliamo all'incirca di 2 anni, e questo assicura un pochettino, protegge un po' il consumatore dal rischio degli aumenti come quelli che stiamo avendo in questi giorni. Ottimo, no? Allora adesso, grazie Silvana De Paolo, adesso dobbiamo andare in pausa perché abbiamo i mercati. Assolutamente sì, ma poi ritorniamo. Esatto, perché... e magari spieghiamo un po' questa bolletta blocca tariffa, come funziona, e soprattutto accoglieremo anche le istanze dei nostri ascoltatori, quelli che invece sono molto attivi e cercano i servizi migliori sul mercato, ma qualche volta insomma questa ricerca si conclude con difficoltà. Cuore e denari. Le ragazze. Io stavo a casa, guardavo una partita di calcio. Di botto la luce. Pum, salta tutto. Maledette voi e la vostra piastra. La piastra dei capelli. Ora queste piastre consumano un botto. Appena attacchi la piastra, proprio boom, tutta la tensione di casa. Allora Deborah, mi viene da ridere già solamente a sentirlo, immaginare questo uso delle piastre, le ragazze vanno matte. Devo dire anche Laura Vanossi è una grande utilizzatrice di piastra. E chissà quanto questo uso di piastre dei phone peserà sull'incremento della bolletta. Questo lo chiederemo subito dopo al tuo esperto. Ma prima della domanda di denari, non possiamo dimenticarci che questi attrezzi del mestiere, chiamiamoli così, influenzano il benessere dei nostri capelli. Allora, a partire dalle 11.45 con la nostra esperta, la dottoressa Elisabetta Sorbellini, dermatologa a Milano, cercheremo di capire se quello che facciamo fa bene alla nostra chioma. Nel frattempo potete già prenotare i vostri interventi al nostro numero verde 800 24 00 24, ma oggi vi chiediamo uno sforzo in più: mandateci una foto dei vostri capelli, delle vostre punte o delle vostre doppie punte, magari mandateci anche una foto della vostra attaccatura o della vostra stempiatura e la commenteremo insieme alla nostra esperta. E soprattutto fateci capire se i vostri capelli, oltre che drizzarsi in testa per l'aumento della bolletta, svengono, cadono nel lavandino, nel cuscino, quanti ne trovate, se risentono dell'autunno, che è una stagione per loro un po' delicata. 800 24 00 24, affidateci le vostre chiome, ci penseremo noi. Sono le bollette fisse che aumentano sempre, il gas metano e la luce. Mi trovavo tra le mani la bolletta di Enigas. È scandaloso, a parte l'illeggibilità e la non interpretabilità degli addebiti. Noi abbiamo degli amici, non dico, ma insomma sono tutti laureati presso poco. Nessuno di loro capisce una bolletta, nessuno. È vero, a volte la lettura della bolletta ci disorienta, a dire poco. Quando poi sappiamo con certezza che i costi aumentano, come è accaduto dal 1 ottobre, l'esigenza di chiarezza naturalmente cresce. Ma Pieraldo Isolani dell'Unione Nazionale Consumatori, mi ricordo male, non dovrebbero arrivare delle bollette di più facile lettura nelle nostre case? L'autorità del gas e dell'energia non ci aveva fatto questa promessa? Esattamente, dovrebbe uscire a breve, anzi doveva essere già uscita, la delibera che ne determinava la forma, il formato. Praticamente dovrebbe venire fuori una bolletta nella quale in un'unica pagina ci sono le cose essenziali. Certo. E soprattutto la cosa essenziale è che ci sia quello che c'è da pagare e quanto viene pagato per ogni consumo. Misura, quindi kilowattore e cose. Tasse che paghiamo, il nostro consumo e quanto paghiamo a seconda del nostro consumo, insomma poche voci chiare. Il valore unitario, diciamo, del prezzo del nostro consumo. Poi se quando c'è bisogno, siccome ancora ci sono bollette pazze, letture del gas che non vengono fatte, quindi ci sono bollette da contestare perché sono conguagli o errori eccetera, in quel caso si ha la possibilità di andare o direttamente il consumatore tramite internet sul sito e vedere esattamente gli allegati che non verranno più mandati, mm-hmm, in cartacei, o comunque se invece questo non è possibile, la possibilità di richiederli alla società di distribuzione. Questa è una cosa che dovrebbe avvenire francamente le devo dire che non capisco perché ancora non sia venuta fuori. Noi ce lo chiediamo anche noi, magari più avanti chiederemo un po' di delucidazioni proprio ai nostri amici dell'autorità del gas e dell'energia. Esattamente. 800 24 00 24, continuo ancora a sollecitare i nostri ascoltatori, ma devo dire che di tanta sollecitazione non hanno bisogno stamattina, sono già belli caldi con l'argomento. Elettrici. Assolutamente, mi pare l'aggettivo giusto, come lo è Eleonora che è da un bel po' di mesi che è arrabbiata. Sì, e anche perché sta aspettando da un po' di mettersi in contatto con noi. Eleonora, buongiorno, ci scusi per l'attesa. No, no, ci mancherebbe, anzi vi ringrazio. Io volevo denunciare l'odissea di dover chiedere un nuovo contatore. Il problema non è scegliere il fornitore, il problema è attivare una nuova fornitura. Sì. È un qualche cosa che è allucinante ed è assolutamente incredibile. Io vi invito a vedere le testimonianze che ci sono in internet. Sì, sì, ma scrivono l'odissea per chiedere una nuova fornitura. Ma questo, Eleonora, è un problema determinato dal fatto che il vecchio fornitore fa molta fatica a mandar via il cliente, quindi ostacola la portabilità. Sto parlando di un nuovo contatore mai utilizzato, per cui qualsiasi fornitore penso sarebbe ben lieto di avere un cliente nuovo, certo. È impossibile. L'unica cosa che rimbalzano da un numero all'altro con delle cose assolutamente, e la ciliegina sulla torta è che quello che riesci a manifestare è la richiesta di esprimere un giudizio sul servizio offerto. È che lei naturalmente molto chiaramente definirà pessimo. Eleonora, ci vuole scrivere in privato? Peraltro magari possiamo provare a chiedere noi delucidazioni appunto ufficiali, quando arriva una mail dal Sole 24 Ore, le posso assicurare che non si sa com'è, miracolosamente. Sì. Siamo molto potenti. Insomma, le troviamo noi il nuovo gestore. Speriamo. Mm? Il nuovo contatore, peraltro. Allora, volevo ritornare appunto a Silvana De Paolo, perché quando noi andiamo a cercare informazioni su un comparatore di tariffe come il vostro, lo facciamo anche perché appunto cerchiamo l'operatore che ci possa dare un miglior servizio e delle tariffe più convenienti. Poi però, quando accettiamo magari una condizione diversa e un operatore diverso, l'offerta commerciale di un operatore diverso, fare il passaggio da un operatore ad un altro è ancora un processo lungo, tortuoso, difficile e molto svilente per i consumatori. Sono migliorate un po' le cose negli ultimi tempi? De Paolo, lei che cosa può testimoniarci? MyBest cosa può dirci? Allora, MyBest può dire che in teoria dovrebbe essere la cosa più semplice di questo mondo passare da un operatore all'altro, nel senso che, come spiegava anche lei prima, il vecchio fornitore dà la cessazione al nuovo e che immediatamente attiva il nuovo servizio. Purtroppo però ci sono dei gestori di zona che mettono anche 3-4 mesi a rilasciare l'ok per il passaggio del servizio stesso. Noi abbiamo i nostri clienti che ci chiamano dicendo: ma come, io ho fatto l'attivazione 2 mesi fa, ancora il nuovo servizio non mi è stato attivato. Ecco, volevo specificare, come un pochino anche quello che abbiamo ascoltato dall'ascoltatrice che ha chiamato, che non è colpa delle società fornitrici, ma dei gestori delle singole zone che purtroppo mettono una vita a dare gli ok alle aziende fornitrici per iniziare a erogare i servizi. Allora, andrei a sentire anche Giuseppe da Lecce, perché in realtà pone una questione che secondo me fa una proposta che è molto interessante, anche se per farla è dovuto passare una disavventura che gli è costata un bel po'. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno. Sì, la mia domanda, cioè la mia disavventura è questa: praticamente si era rotto all'interno di casa una pompa di risalita, per cui io non me ne ero accorto. Normalmente mi arriva una bolletta da 300-320 euro ogni 2 mesi, e tutto d'un tratto mi è arrivata una bolletta da 800-900 euro, per cui lì è stata lievitata. Il panico, dico, che cosa è successo? Perché è risalito, diciamo, al danno che aveva avuto la sua pompa. Esattamente. Diciamo, io ho pagato perché normalmente, cioè, il consumo c'è stato effettivamente così. Però io mi chiedo, siccome per quanto riguarda la telefonia, quando si supera la media della soglia dell'utente, diciamo, arriva il messaggino: guarda che tu stai mandando dei messaggi oppure hai superato la tua soglia normale, classica. E lei dice, insomma, perché qualcuno non ci avvisa anche, no? Non ci avvisa, perché è possibile che non ci sia. Ottimo, abbiamo dato alle associazioni dei consumatori un suggerimento per un altro filone su cui lavorare. Non è male l'osservazione Isolani di Giuseppe, no? Che dice lei? Dovrebbe avvenire con i nuovi contatori, perché sono dovrebbero essere quelli che ci danno in tempo reale i consumi. Quelli della telelettura sostanzialmente. Perché con questi contatori è praticamente impossibile, perché nessuno va a vedere che cosa sta succedendo nei consumi, mentre nella telefonia viene il messaggino perché si sta superando il limite contrattuale fissato. C'è un criterio di misura, diciamo così. Con questi contatori attuali non esiste questo e quindi è praticamente impossibile, mentre sarà possibile nel giro di qualche anno, quando verranno messi nuovi contatori che consentiranno all'utente di vedere volta per volta con un display in casa quali sono i propri consumi, proprio in tempo reale. E quali sono i consumi dei singoli apparecchi. Però insomma nel 2014 portati. Tutto arriverà, lo faremo, e arriverà, santo cielo, ma quanto arriverà, ci vuole? Mannaggia, non me lo chieda, però lo so. Su questo stiamo cercando di spingere, perché è certamente una cosa importante. Benissimo, allora in telegrafico Isolani, poi dobbiamo chiudere questa parte, un suggerimento ai nostri ascoltatori per affrontare questo autunno all'insegna dei rincari di luce e gas, oltre a tenere spento quanto più possibile l'impianto elettrico e cucinare il meno possibile, perché sennò il gas va, che cosa dobbiamo fare? Guardi, risparmiare nel modo che proponete voi. Buon senso in casa, e punto. La cosa importante è vedere se la propria abitazione è energeticamente efficiente, certo. O seppure è un colabrodo energetico, come sono molte delle nostre case, specialmente i condomini che sono nati dagli anni 60 agli anni 90. Quindi ipotizzare anche addirittura magari modificare l'impianto di riscaldamento, gli infissi che staranno fuori. La possibilità di detrarre il 65% dalle tasse delle spese effettuate, qui si tratta di risparmi del 30-40%. Ottimo, grazie. La pentola coperta è sempre bene. Certo, però. I risultati vengono. Grazie, grazie a Pieraldo Isolani. A Silvana De Paolo ricordo solo che per le famiglie che sono in forte difficoltà economica l'autorità della luce e il gas ha anche varato il bonus sociale per la luce e quello per il gas, per cui andatevi ad informare, mettiamo tutte le informazioni su Facebook. Questi due bonus sono ancora attivi e naturalmente vengono incontro un po' a quelle famiglie che non arrivano alla fine del mese, sono in difficoltà economica. Allora, questi grattacapi come li affrontiamo? Li affrontiamo tra poco con la nostra esperta, perché abbiamo tanto bisogno di consigli per non far cadere i capelli, per non farli svenire né rizzare in testa. Cuore e denari. Io senza capelli sono una pagina senza quadretti, un profumo senza bottiglia, una porta chiusa senza la maniglia, biglia senza vista, un pescatore sprovvisto della sua migliore estate. Dai, capelli, a volte sono elettrici, abbiamo, sì. Abbiamo legato. Guarda, così i due temi di cuore e denari di oggi, dall'elettricità ai capelli elettrici, ma anche ai capelli che svengono, cadono, diventano senza tono, si spezzano. E poi col cambio stagione poi mi dovrai spiegare se... come dire, cascano un po' di più, se, come dire, patiscono un po' il cambio di stagione. Si dice cadono i capelli e le castagne. Lo chiederemo alla nostra esperta oggi, che abbiamo il piacere di avere in studio con noi, la dottoressa Elisabetta Sorbellini, dermatologa a Milano. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, dottoressa, con lei parleremo di capelli, ma andremo oltre. Ai nostri ascoltatori abbiamo già chiesto di mandarci delle foto dei loro capelli per capire dove sono in testa, ce lo auguriamo, ma possono anche svenire sul cuscino, nel lavandino, anche sul pavimento. Ma a proposito, dottoressa, diamo subito un po' di numeri. I capelli crescono e cadono e lo fanno continuamente, indipendentemente dai nostri desideri e incuranti, ahimè, della nostra eventuale preoccupazione o disappunto. Ma quando ci dobbiamo preoccupare? Adesso cadono un po' di più, è normale. Adesso no? È normale che cadano, poi spiegherò anche, ci sono delle basi scientifiche, dei motivi ben precisi per cui cadono un po' di più dopo l'estate. Diciamo che complessivamente abbiamo una quantità totale di capelli che si aggira tra i 250.000 e i 300.000. Pensa come siamo sono ricchi. 150 per centimetro quadrato. Mm. Poi ovviamente la densità cambia a seconda che del sesso, la donna ha i capelli più grossi, più fitti, l'uomo li ha più sottili, un po' più radi, a seconda del colore dei capelli, della razza, e in base a questo cambia anche la quantità dei capelli che cade giornalmente. Certo. Tutti i giorni ne devono cadere un po', la maggior parte dei capelli è nella fase di crescita, una minima parte cade per essere poi sostituita. Ma mediamente, quando vediamo i capelli, il ciuffone della spazzola, oppure quando ci laviamo i capelli, sì, vediamo, esatto, no? Che sono rimasti nel lavandino e diciamo: oh mamma mia, quanti! Noi non possiamo metterci a contare, no, se sono 100 più, no, o certo, meno. Certo, però, ecco, ma ad occhio, cosa possiamo capire dal capello caduto sul lavandino? Possiamo guardarlo, possiamo, e che informazioni ci dà? Ecco, innanzitutto possiamo vedere se è un capello spezzato, cioè se ha una pallina in fondo o no. È un capello senza la pallina, cioè senza il bulbo in telogen, sì, che è la fase terminale del capello, vuol dire che è un capello spezzato, per cui bisogna andare a vedere com'è il fusto, e le patologie del fusto sono date tante. Da tante, magari date da delle carenze anche dietetiche. Se invece c'è il bulbo, bisogna andare a vedere com'è, se ha forma di pallina tondo oppure un po' più grosso, e anche in quel caso ci dà un'indicazione sul tipo di patologia. Se ne cadono tanti nella fase attiva, vuol dire che c'è stato un blocco importante, magari uno stress, una malattia importante, o anche dopo il parto, questo può capitare. Lei ha toccato un tema a noi particolarmente caro, perché sono già arrivati dei messaggi di mamme che ci chiedevano: per favore parlate dei capelli per le mamme che stanno allattando, anche quella è una fase delicata della vita, in cui le chiome non danno, certo, meglio di sé. Certo. Daremo dei, sì, consigli, daremo dei anche consigli alle mamme. Sì, sì. E allora invitiamo alle mamme, mm-hmm, che allattano, tra l'altro partirà tra poco la settimana proprio dedicata all'allattamento al seno, di fotografare i loro capelli, magari anche i capelli dei loro bambini che sono belli e pelatini. La seta proprio naturale, sì. Allora abbiamo già Patrizia d'Ancona e Renata da Brescia. Patrizia, buongiorno. Sì, che perché forse aspetta da qualche minuto in più. Buongiorno. Benvenuta. Eccoci qua. Buongiorno. Innanzitutto vi faccio i complimenti perché è una trasmissione che seguo con molto piacere. Brava. E poi l'argomento mi interessa particolarmente, come ho già detto alla signora, sto perdendo i capelli praticamente da giugno a fasi, diciamo, più o meno copiose fino a novembre. E quindi mi ritrovo ad avere, io avevo una chioma molto folta e bellissima, mi ritrovo ad avere, diciamo, pochi capelli, non pochissimi, ma comunque pochi, e la cosa mi preoccupa un po', anche perché non ho fino ad ora trovato rimedio. Ho consultato un dermatologo, al quale mi ha detto che in estate i capelli cadono perché si suda, però c'è lo stress del sole, però la nostra esperta sta scuotendo, sì, un po' la testa. Intanto noi ricordiamo a Patrizia di guardarli questi capelli che cadono, guardiamo se hanno la pallina, cioè se hanno il bulbo, oppure se sono capelli spezzati. Questo serve già al dermatologo, non a noi a fare diagnosi, ma a noi dice che sono due problemi diversi, sì, uno del problema del fusto, che può essere una carenza, invece l'altro, quando c'è il bulbo, dei problemi, certo, che sono più più certo, possono essere, può essere dato da tanti motivi una caduta importante. Come dicevo prima, una dieta poco equilibrata può essere importante nel determinare una caduta. La carenza di ferro nella donna è fondamentale, e spesso si trova carenza di ferro, carenza di zinco, carenze di oligoelementi, che sono fondamentali per costruire la cheratina. Certo. Per cui si mantengono poi questi stati di caduta un po' cronicamente, mm-hmm, nel tempo, e ciclicamente si ripropongono in certi periodi dell'anno. Si tratta di spezzare un attimino questo circolo vizioso che si viene a creare, andando ad aggiungere o a sistemare un pochino l'alimentazione e la dieta. Quindi si parte. Esatto, Patrizia dovrebbe fare magari delle delle analisi per stabilire... Ti ho rubato la domanda, no, per curiosità, esempio, perché Patrizia vogliamo ce li abbiamo tutti. Restituire la bella chioma che aveva. Cosa deve fare per controllare? Appunto, innanzitutto fare degli esami mirati, che sono l'emocromo, certo, per vedere la quantità di globuli rossi, l'emoglobina, il ferro, la vitamina D, un po', diciamo, degli esami di routine per andare ad escludere certe patologie. E non dimentichiamo che ci possono essere svariate cause per la donna, sì, di perdita di ferro, per esempio delle mestruazioni abbondanti, oppure anche certe situazioni un po' più ormonali, in cui c'è anche un assottigliamento dei capelli per questioni ormonali ed ereditarie che non bisogna escludere. Aggiungiamo un altro dettaglio, dottoressa Sorbellini. Uomini e donne perdono i capelli in modo differente. Gli uomini si stempiano, diventa quella, no? La fronte bella alta, e invece le donne iniziano ad avere la riga dei capelli che si allarga fino a formare una sorta di figura che possiamo paragonare a un albero di Natale rovesciato, sì, no? Sì, esattamente. Allora, anche questo può essere un'indicazione che possiamo dare a Patrizia. Guardiamo, certo, quando ci facciamo la riga, ci pettiniamo, se per vediamo. Esempio, se si ha una attaccatura frontale normale e si svuota la parte centrale della testa, è più un problema magari ormonale legato anche a volte delle cisti ovariche, sì, a una situazione un po' particolare. Se invece c'è proprio uno svuotamento delle tempie, sì, lì è più un defluvio, quindi di tipo carenziale. Cuore e denari. Come porti i capelli, bella bionda? Tu li scusi abbastanza. Guardi. Ma è nell'uomo relativamente, secondo me. Da 1 a 10 sicuramente 8. Ma penso abbastanza, siano abbastanza importanti, beh, sicuramente dovevano essere curati. In una donna sicuramente di più che in un uomo. I capelli contano, perché si vede come sta una persona. Se uno è pettinato bene in un certo modo fa anche più bella figura. Come porti i capelli, bella bionda? Ah, guardi, dunque, dipende molto anche dall'abito. Se ho la scollatura e me li faccio sul davanti, sul di dietro e sul di fianco. Anche una volta sono stato a una festa e li avevo tutti giù fino per terra. E poi invece mi sono accorto, faccio la riga in mezzo e due scignon là in mezzo al mare. E voi come li portate? Soprattutto, che pensate dei vostri capelli? Siete soddisfatti? Siete preoccupati di che cosa? Dell'aspetto, del numero? Che cosa sareste disposti a fare o a rinunciare per avere e mantenere i capelli sani, forti e lucenti? Chiamateci, ma inviateci anche le vostre foto, come ha fatto un nostro ascoltatore simpaticissimo che ci scrive Lorenzo. Tra l'altro, guarda, da quello che capisco dalla mail che ci ha mandato, era in macchina, probabilmente si è fermato con l'iPad, ci ha fatto pure una foto e ce l'ha mandata. Oltre a farci complimenti, ci dice: la mia densità è di un capello per metro cubo, ma va bene così, contento, sorridente, felice. Noi salutiamo Lorenzo con affetto. Dottoressa, capelli che non sono, insomma, fitti fitti, sì, sono quelli del nostro ascoltatore, un po' radini, ma... Che peraltro sta molto bene. Allora, è vero, è pure carino, posso dire. Va bene, allora che ci scriva, e lui e le sue chiome rasate. Ma abbiamo parlato della caduta dei capelli al femminile, sì, dando delle indicazioni in modo che le nostre amiche da casa possano guardarsi, andare davanti allo specchio e cercare di fare una sorta, non di autodiagnosi, ma di valutazione per capire se è il caso di correggere un po' la dieta, oppure magari andare a parlare con il dermatologo, che, sì, è l'esperto di riferimento, che può farci soprattutto una diagnosi. Gli uomini invece, io dicevo banalmente, si stempiano, gli viene la fronte alta e spaziosa, ma anche un dermatologo la stempiatura la utilizza anche per avere delle indicazioni diagnostiche. Sì, per valutare se c'è o non c'è una forma ereditaria, una forma androgenetica, e si guarda la stempiatura, ma si guarda anche la sommità della testa, il vertice, la parte più diciamo al culmine della testa, che infastidisce molti ragazzi e preoccupa molti ragazzi, perché comunque i capelli sono importanti per tutti, è una sorta di biglietto da visita. Poi nell'età adolescenziale, giovanile, contano molto per quello che è appunto il presentarsi al resto della società, vita sociale in generale, ecco, difatti. e in alcuni casi anche possono condizionare la vita sociale, l'autostima e anche le scelte lavorative a volte. Bellini, a proposito di tempo e ritmo, anche la salute dei nostri capelli, l'aspetto dei nostri capelli segue i tempi, ha dei suoi ritmi. Abbiamo detto tante volte che le stagioni di mezzo, come l'autunno e la primavera, sono delle stagioni un po' delicate, ma c'è di più. C'è un convegno che sarà a dicembre, un seminario che terremo appunto a dicembre, ecco, che parla proprio del ritmo circadiano nella pelle e nei capelli. Sì, allora, che cosa avete scoperto? Intanto il ritmo circadiano è il ritmo di crescita e di morte delle cellule di tutto il nostro organismo, cioè tutto il nostro organismo si rinnova e secondo il ritmo giorno-notte. Il ritmo circadiano prende in considerazione le 24 ore del giorno, però si può parlare addirittura di ritmo più che circadiano, circa stagionale anche, perché nelle stagioni cambia il ritmo di crescita e di caduta dei capelli. Per esempio, dopo l'estate è abbastanza frequente vedere delle forme di caduta indotte o da un eccesso di sole, di stress, esposizione al sole. Quest'anno le abbiamo stressati. Quest'anno poco, però, eh. Ecco, ma c'è anche l'effetto contrario, cioè il sole, i raggi ultravioletti fanno male alla pelle, per cui ci si deve proteggere. Ma d'altra parte la luce è fondamentale per il nostro benessere e per il benessere anche dei capelli, perché la luce fa sì che venga prodotta una sostanza fondamentale, che è la melatonina, che induce la crescita dei capelli e il benessere dei capelli, oltre che il benessere di tutto l'organismo. La melatonina viene prodotta di notte da una ghiandola endocrina, che è la ghiandola pineale, e di giorno viene prodotta da altre centraline periferiche, tra cui la pelle è un organo importantissimo. Ci sono persone che la prendono anche per superare il fuso orario. Stavo proprio pensando a quello, quindi addirittura prendere la melatonina per superare queste fasi magari momentanee della vita aiuta anche il capello e non solo. La melatonina comunque agisce anche per uso locale, quindi può essere utilizzata come strumento anticaduta. Magari non da sola, ma in associazione ad altre cose che servono proprio per curare la pelle e i capelli. Ecco, ma da questo voi avete pensato anche a strutturare magari dei consigli per suggerire ai vostri pazienti di utilizzare magari dei prodotti in una fase particolare della giornata o dell'anno? Sì, esiste anche un ritmo circadiano e quindi un aumento dell'efficacia della terapia con determinate sostanze da assumere per bocca o da mettere sulla pelle in momenti diversi della giornata. E addirittura esistono anche dei consigli dietetici importanti, dei consigli alimentari, per cui si va a scegliere in una dieta specifica, in un caso specifico, quali alimenti assumere alla sera piuttosto che al mattino. Ci fa un esempio? Incuriosite, sì. Per esempio, ci sono. Ci guardi anche un po' i capelli, intanto che siamo qua. I miei oggi no, perché sembro veramente una pazza. Sembra che mi sono pettinata nel microonde. Scrocchiamo una visita. Allora, per esempio, si possono utilizzare sostanze proteiche, quindi aminoacidiche al mattino, tipo, non so, i cereali o le noci che contengono anche vitamina D, che funziona molto bene nel ridurre il processo di infiammazione nella pelle. Queste noci sono straordinarie. Il nostro dottor Noce, dottor Speciani, le raccomanda sempre per tutte, quindi adesso scopriamo che anche sono un tocca sana di fatti. Poi quindi a mattino noci, cereali, latte, poi dipende se ci sono o meno delle intolleranze, questo lo si valuta, e alla sera per esempio un mezzo bicchiere di vino non farebbe male, perché a chi piace il vino, in particolare quello rosso, contiene tannini che hanno una funzione tipo fitoestrogeni importante. Perché i capelli sono dei buon gustai. Allora, abbiamo tante telefonate all'800 24 00 24. Cominciamo con Renata, perché così le facciamo il famoso test del codino. Ti è piaciuto, vero? Mi è piaciuto tanto. Allora, Renata, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno a tutti e vi ringrazio la compagnia che mi fate. Bene, anche a lei, grazie Renata. Io ho 64 anni e praticamente il mio problema è che sono diventati molto molto sottili i miei capelli, e non è che li perdo adesso solo perché è autunno, ma sono mesi e mesi che nel mettermi le mani nei capelli mi ritrovo le mani con vari capelli, insomma. Allora, Renata, la nostra dottoressa Sorbellini ha registrato tutto. Intanto, se lo diciamo a Renata, ma a tutte le amiche che ci ascoltano, che portano magari i capelli un po' lunghi, provate a farvi la coda. È più piccola, più sottile rispetto agli anni scorsi? Cioè, avete notato che è diminuita un po' di, si dice, volume, spessore. Allora, chiamateci subito, state lì, perché parleremo anche naturalmente di menopausa, di donne in menopausa e di donne che allattano, con i consigli della nostra esperta. Dottoressa Renata, che cosa può fare? Intanto una valutazione, come dicevo prima, degli esami del sangue per vedere se ci sono degli stati infiammatori anche cronici, e lo si vede da un emocromo, perché dopo la menopausa ci sono delle situazioni anche metaboliche che si vengono a creare, per cui vengono sfavoriti un po' i capelli. Nell'arco della vita c'è anche un processo naturale di invecchiamento anche dei capelli, per cui nell'età giovanile sono più spessi, più corposi, anche per l'effetto degli ormoni, degli estrogeni, che vengono poi a mancare dopo la menopausa. Si spengono un pochino, diventano più sottili, più chiari, più trasparenti. Ma questi, noi quando andiamo in farmacia, andiamo al supermercato, vediamo tanti integratori per capelli, ci affidiamo oppure rischiamo di perdere di buttare via dei soldi? Allora, in prima battuta se non ci sono problemi particolarmente gravi, per cui appunto è consigliabile comunque farsi vedere da uno specialista, in prima battuta possono essere molto utili. Se però il problema persiste, bisogna fare delle indagini un po' più approfondite per scegliere l'integratore più specifico in quel caso, o la terapia più specifica. Dopo quanto tempo fa effetto un integratore? Dopo 2 mesi. Già dopo il primo mese si incomincia ad avere il sentore che funzioni, e dopo 2 o 3 mesi si ha proprio l'effetto migliorativo dei capelli. E un dato importante è la lucentezza del capello, la consistenza. Appunto, facendo la coda, se valuto, raccogliendo i capelli in una mano, che lo spessore della coda si è ridotto di meno della metà, c'è un problema. Sì. Si deve considerare che c'è un problema. Allora, se avete problemi, se avete qualche grattacapo, 800 24 00 24, un ascoltatore ha scritto che i suoi capelli si sono spostati dalla testa alla schiena. Ci auguriamo che sia maschio. Speriamo. E dove andiamo? Allora, Andrei ha introdotto il tema della menopausa. Allora, facciamo formulare la domanda ad Adriana da Cagliari per capire, insomma, questa delicatissima fase della vita di ogni donna, che cosa provoca sulla nostra testa. Adriana, buongiorno. Io sono Adriana, ma da Catania, non da Cagliari. Ma speriamo che ci sia il sole anche lì. Sì, Adriana, il sole è un tempo bellissimo. Ecco, io sono entrata in questa fase delicata. Ma Adriana, lei è dal parrucchiere in aeroporto o in macchina? No, o sotto il phon? No, sono per strada. Con l'auricolare, brava. No, sono arrivata, sono scesa dalla macchina adesso, quindi sto camminando. Ok. Dicevo, sono entrata in questa fase delicata della nostra vita di donne, no? Quella della menopausa. Riesco ancora a mantenere i capelli lunghi? Ecco, chiedevo dei suggerimenti per prevenire la caduta e l'indebolimento. Allora, grazie ad Adriana che continua a fare la sua passeggiata, è scesa dalla macchina ma ci ascolta sempre, cammina con noi. Dottoressa Sorbellini, alle donne in menopausa, quali sono dei consigli proprio concreti, pratici? Sì. A che quale magari integratore dobbiamo ricorrere, che cosa dobbiamo fare? Certo, allora dopo la menopausa cambiano gli ormoni, giustamente vengono meno quegli ormoni che sono utilissimi e fanno star benissimo i capelli, cioè gli estrogeni, vengono a calare e bisogna valutare con degli esami annuali, con una ciclicità annuale, il funzionamento un po' di tutto l'organismo, per cui si va a fare l'emocromo, si vanno a valutare la funzionalità della tiroide, per esempio, la funzionalità del fegato, il colesterolo, ci possono essere delle... Dopo questo check-up generale si stabilisce. Breaking news. Buongiorno a tutti, 12:22 minuti e 37 secondi, studio Daniele Biacchesi. Pochi minuti fa scontri a Napoli, a corteo contro il vertice della BCE, il gruppo di testa del corteo aveva indossato caschi, si sono coperti il volto, le immagini che vengono trasmesse in questi secondi dalla TV dimostrano un momento di forte tensione, sono stati sparati anche diversi fumogeni. Naturalmente con le nostre corrispondenze da Napoli vi racconteremo anche in effetto giorno le ultime notizie che provengono dal vertice della BCE. E noi riprendiamo ad occuparci della nostra chioma. Allora, dottoressa Sorbellini, quindi alle donne in menopausa diciamo che devono controllare... Non dovete rinunciare alla bellezza dei vostri capelli, che la menopausa rinunciare. Non è una malattia. Assolutamente, è una condizione naturale, ecco. E in cui i capelli possono continuare a star benissimo. Va solo valutato ogni tanto degli esami del sangue, appunto la presenza adeguata della vitamina D, che può essere correlata al funzionamento della tiroide. Sì. Si possono fare delle tinture mensilmente in situazioni normali e non bisogna eccedere in trattamenti che secchino troppo il cuoio capelluto, la pelle e il fusto. Il fusto che tende, per esempio, i colpi di sole, le mesh, magari non mensilmente, non ma esagerate. Con una ciclicità un po' più lunga. Allora, abbiamo in linea con noi il nostro dottor Luca Voledo, buongiorno, che è stato soprannominato anche dottor Colesterolo, si ricorda? Buongiorno. Bene, buongiorno. E ha una bella chioma, dottora Voledo. Sì. Me la cavo. Me la cavo, insomma, devo dire sì, ha una bella chioma, è un bel ragazzo il dottor Voledo. Allora, senta dottora Voledo, lei ci deve aiutare, magari prendendo spunto anche dai suggerimenti che ci ha dato la nostra esperta. Abbiamo visto che spesso i problemi di caduta dei capelli, i capelli si spezzano anche a causa di carenze, e abbiamo la dottoressa Sorbellini ci ha detto che il ferro gli piace molto ai nostri capelli. Allora... Sì, è vero, il ferro, soprattutto nelle donne in età fertile, come credo che si dicesse, potrebbe essere un problema, potrebbero essere carenti, e il ferro serve anche ai capelli insieme allo zinco e ad altri nutrienti, quindi attenzione alle diete che limitino troppo i cibi ricchi di ferro e magari quindi alcune proteine animali cui il ferro è molto ben disponibili, assimilabili, e magari penso per esempio a alcune diete vegetariane, per converso, che utilizzano tanto i vegetali e le fibre, dove ci sono delle sostanze come l'acido fitico che limitano l'assorbimento anche di quel poco ferro che viene utilizzato, quindi chi segue una dieta vegetariana deve farlo in modo corretto, ecco, come abbiamo sottolineato tante volte. Quindi, ma funziona il limone ad esempio sugli spinaci, ecco, per far assimilare di più il ferro? Un trucco per chi è un vegetariano: nei vegetali c'è il ferro, negli spinaci ce n'è anche tanto, ma non è molto biodisponibile, come si suol dire, cioè non viene ben assimilato. Condirli con succo di limone che contiene vitamina C ma anche acido citrico lo rende un po' più biodisponibile, non si arriva ai livelli della carne e di altre proteine animali, ma come dire, è un buon compromesso, insomma. Senta, dottor Avoledo, i capelli a volte sono elettrici, perdono, insomma, non si riescono a pettinare, questo è un segnale un po' del loro malessere. Lei ci ha qualche cosa da suggerirci? Il miglio, ad esempio, fa bene ai capelli? Sì, il miglio fa bene, è un nutriente che può essere utilizzato in questo caso anche dai vegetariani, anche come integratore, ma anche come cibo, contribuisce sostanzialmente a rimineralizzarli, quindi benissimo il miglio. Per quello che riguarda i capelli elettrici, molto spesso c'è un problema di secchezza dei capelli, che si fa soprattutto verso l'inverno, e quindi l'aria secca in casa, le piastre, si diceva prima, la piastra vi secca molto. Vi consiglio un trattamento naturale molto interessante con un frutto, una verdura frutto che mi piace molto, che è l'avocado. Okay. Potete provare un trattamento con un avocado che è molto ricco di grassi buoni e olio extravergine d'oliva. Si fa una pappettina con l'avocado e un cucchiaio di olio extravergine d'oliva caldo, e questa miscela può essere applicata anche, quindi a uso cosmetico, sui capelli umidi e caldi, si massaggia un po' e si avvolgono in un asciugamano, si lascia in posa per una mezz'oretta. E poi si può procedere allo shampoo come di consueto e ripetere magari una o due volte a settimana. Questo li nutre, li rende, gli dà un po' più tono e contrasta la secchezza. Allora vado a comprare l'avocado. Dottoressa Sorbellini, grazie, deve tornare perché mille ancora domande dei nostri ascoltatori, tantissime. Ma il tempo scappa. Il tempo è tiranno, noi naturalmente torniamo. Fammi pensare che giorno è oggi. Oggi è mercoledì. No, giovedì. Oggi è giovedì e domani è venerdì e torniamo naturalmente. Ce la faremo! Diretta. Cuore e denari.